GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci, serata di gala per la Champions League che sceglie stasera le sue due prime semifinaliste. Riflettori puntati sull'Inghilterra. A Londra il Chelsea deve rimontare il 2-1 subito nell'andata dei quarti di finale dal Fenerbahce Istanbul. A Liverpool invece Red Devils favoriti dopo l'1-1 dell'andata nel derby con l'Arsenal. Ma Benitez non si fida dei londinesi. Per noi è importante segnare un gol, no? Se possiamo farlo, meglio, perché sappiamo che Arsenal è una squadra troppo forte quando gioca fuori di casa. Noi dobbiamo pensare un po' di più, abbiamo parlato di questo, abbiamo lavorato con la squadra e pensiamo che abbiamo una soluzione. E domani a Manchester in campo la Roma che cerca l'impresa dopo lo 0-2 subito all'Olimpico contro Cristiano Ronaldo e compagni. Non ci sarà Totti, ma Spalletti recupera Aquilani. Tra gli inglesi assente Rio Ferdinand. In campo sempre domani anche Barcellona-Schalke 0-4 coi catalani forti dell'1-0 ottenuto in Germania. E la Champions League, magari con la sua Sampdoria, la sogna anche Antonio Cassano, che non rinuncia a sperare anche in una convocazione per i prossimi europei. Sentiamolo a Rai Sport. Di accettare qualsiasi ruolo, no, però sicuramente se vado perché mi vado a giocare le mie carte. Tra Totti, Del Piero e Cassano, lei chi porterebbe in nazionale agli europei? Oh, sicuramente Cassano. Io penso, ho sempre detto, siccome sono un tipo che si piace molto, io non sono secondo a nessuno. E un bel pezzo di sogno europeo vale anche Juventus-Milan, big match di sabato in Serie A. Gagliani pensa al mercato dei rossoneri ed elogia i rivali pur battuti dal Palermo. Escludo che ci sia un solo giocatore al mondo che abbia, almeno di quelli che ho sentito io, abbia pensato che se il Milan in Champions ci va e se no non ci va. I rapporti con la Juventus rimangono tradizionalmente ottimi. A me è sembrata una grandissimissima Juventus nel secondo tempo che mi ha impressionato. Chiudiamo col nuoto. Non ci sono prove concrete che il body laser racer della Speedo aiuti a migliorare le prestazioni in piscina. È quanto sostiene la Federazione Internazionale del Nuoto riguardo al rivoluzionario costume che ha suscitato molte perplessità. Se ne riparlerà sabato proprio a Manchester, dove domani scattano i mondiali in vasca corta. Abbiamo chiesto un parere a Claudio Rossetto, l'allenatore di Filippo Magnini, che a Pechino punterà l'oro sui 100 metri stile libero. Credo che a Manchester ratificheranno il costume, la mia impressione. Credo che sia molto difficile un processo retroattivo per cui blocchino l'omologazione del costume che ormai ha prodotto tra l'altro parecchi record del mondo. E credo che quindi le aziende che non hanno ancora sul mercato un prodotto simile dovranno accelerare i tempi per adeguarsi, altrimenti si va verso un utilizzo del costume da parte di tutti. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport dalle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.